La gente ti guarda in modo malo, forse perché non sei uguale a loro. Ma io rispondo, andate a fare in culo, io di sicuro non mi ritrovo in voi. La gente ti guarda in modo malo, forse perché non sei uguale a loro. Ma io rispondo, andate a fare in culo, io di sicuro non mi ritrovo in voi. Ti buoni il berretta, va, lo sai che avve sempre un difetto, a pochi gli biasi il concetto, ma a me gli biasi l'aspetto, ga. Tu che ti buoni il berretta, va, lo sai che avve sempre un difetto, a pochi gli biasi il concetto, ma a me gli biasi l'aspetto, ga. A pochi gli biasi la serie, dai, dizzi non ve, nuda da vai in zittai, tutti ci mia, chi non comprendi di un ca, la galiscia. La tiritera, tutti sciucchera, da romanzana rasera, da rugannoni alla birra rapera, e ribassoni di sassa di sclera, mba. A me non mi piazzi i cusa, meglio ti poni e ti scrivi una cosa, tasa uniclusa, usa unicusa, scrivi una cosa da gente confusa, ba. Ara prossima.